Tecnologico Quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti, e il programma prevede di parlare di esibizioni, di sinistra astrologica, nonché di coerenze.